che ciò viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mentre la motosega ancora addenta le lastre di compensato che stanno costruendo il nostro stand, iniziamo a trasmettere dal Salone del Libro di Torino. Se sentite un leggero alone della mia voce, perché noi siamo in un vasto spazio, una specie di abitacolo verde e nero con ancora pochissima gente. Ci sono le prime scolaresche che vengono portate a forza nel Tempio della Cultura, ci sono le signorine che gestiscono gli stand e ci sono persone che si stanno dando da fare per preparare quello che sarà il Tempio della Cultura, in cui da oggi tutto il radical sciccume mondiale verrà, transiterà, si contaminerà con i libri e si farà sentire, vedere e sarà felice perché finalmente nel Tempio della Cultura. Vi posso dire che nell'esattezza Radio 24 sta al padiglione 2, stand H170 e J169. Se sentite l'odore del kebab, seguite la scia del kebab, arrivate dove siamo noi, perché qui dietro c'è un kebab bar. L'anno scorso c'era un venditore di hot dog, quest'anno c'è il kebab. Sarà un segno, sarà un segnale. Beh, noi siamo qui. Di cosa parliamo questa mattina? Noi abbiamo già detto che al culmine di questa nostra presenza al Salone del Libro, in cui nessuno in questo momento ci sta calcolando perché stanno stendendo i fili e pensano che stiamo facendo delle prove, ma sapessero che tutto il mondo è in ascolto, beh, in questi due giorni in cui saremo qui coroneremo il sogno di tanta gente rendendo felice almeno 5 aspiranti scrittori, 5 poveretti che da anni gestiscono nel loro cassetto un manoscritto maledetto, avranno la soddisfazione di vederselo stampato in 50 copie. Voi dite cosa ci fanno? Beh niente, ci vanno a celebrare se stessi alla sagra dell'arrosticino o vanno in qualche festa parrocchiale, insomma ci faranno qualcosa e saranno felici. E poi ci saranno altre millanta novità e felicissime occasioni di felicità se ci seguirete. 800 24 00 24. Questa mattina di cosa vogliamo parlare? Beh, questa mattina vogliamo cominciare a dare un senso al fatto che siamo al Salone del Libro. Io mi domando e mi chiedo, tutta questa carta stampata, queste centinaia di migliaia di libri, questa fantastica signorina dal tacco altissimo che attraversa davanti a me con un foulard arancione e finge non vedermi, beh, in questo momento qual è il senso di tutto questo? È che piccole parcelle, atomi di esistenza, sogni, illusioni, momenti vissuti di tanti esseri umani hanno avuto la fortuna di appoggiarsi, adagiarsi su un supporto che ancora rappresenta quanto di più stabile ci sia nella storia dell'umanità. Siamo abituati a vedere il nostro sapere, la nostra esperienza, la nostra memoria appoggiata in fantastici supporti digitali, ma ancora l'umanità che deve conservare qualcosa e sfidare il logorio del tempo la affida alla pergamena. Ciò disse un amico scienziato qualche tempo fa, che una volta che si posero il problema, lui e altri, dove lasciamo scritta una traccia di quello che stiamo facendo con sicurezza il più possibile scientifica che rimanga, lo possiamo scrivere soltanto su pergamena, perché i documenti più antichi che abbiamo della nostra umanità sono scritti su pergamena. Quindi scientificamente non esiste supporto digitale, compact disc, barra al titanio in cui salve signorina con l'aspirapolvere in mano dal capello rosso che passa, vi sto descrivendo le signore delle pulizie che sono di quanto più fantastico in questo momento attraversi il mio orizzonte. Beh, siccome la pergamena, il supporto cartaceo, il tradizionale supporto è ancora quello in cui esiste maggior credibilità, in cui è possibile appoggiare la storia dell'umanità, questa mattina cominceremo a parlare di quanto sia possibile lasciare traccia di se stessi, di quanto l'umanità possa trasmettere qualcosa di quello che hanno vissuto gli uomini attraverso dei supporti. In questo caso parleremo di libri. Accanto a me a darmi una mano in questo impervio compito c'è un'amica di Radio 24 che spesso sentite ai nostri microfoni, che è Silvana De Mari. Buongiorno Silvana De Mari. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ci siamo dati del tu perché siamo visti carnalmente, quindi per la prima volta possiamo, lei mi ha autorizzato a darle del tu, finora l'ho sempre chiamata professoressa. Silvana De Mari scrive romanzi per ragazzi, che è qualcosa di fondamentale, di unico e di ineffabile, perché quello che chiameremmo l'imprinting, la prima sensazione che che sia possibile attingere qualcosa dal nostro passato sia attraverso i libri che ci mettono in mano, quando ce li mettono, se ce li mettono, se ancora ce li mettono, quando siamo ragazzi, quando ancora abbiamo una grande desiderio, una grande ansia di capire il mondo che ci circonda. Silvana Mari, oltre ad aver scritto romanzi per ragazzi, è anche medico e psicoterapeuta. Vi cito alcuni dei suoi ultimi romanzi: La bestia e la bella, edizioni Salani 2003, L'ultimo elfo, edizioni Salani 2004, in mano ho Il cavaliere, la strega, la morte e il diavolo, Lindau edizioni, un libro di cui parleremo, ma in particolare questa mattina c'è qualcosa che volevi dire. Il tuo libro dell'ultimo elfo sta seguendo un cammino molto particolare, per cui si dimostra che il libro in fondo è tale e ha dignità di tale quando si contamina anche con la realtà, non quando rimane in degli stand di editori, non quando viene comprato, appoggiato in una biblioteca, non quando viene ostentato semplicemente come oggetto di status culturale. Del tuo libro cosa è stato fatto questa mattina? A Volvera, infatti, io stamattina avrei dovuto essere a Volvera a incontrare 10 classi delle elementari, le incontrerò nei giorni futuri, hanno fatto i salti mortali perché io potessi essere qui. Volvera è un paesino della provincia di Torino che ha adottato l'ultimo elfo, cioè tutto il paese. Quindi non è solo che tutte le classi, sia delle elementari che delle medie, l'hanno usato e delle superiori, io sarò felicissima di incontrarle, ma addirittura il paese, l'ultimo elfo sarà usato per le vetrine, sarà usato per le strade, per le decorazioni. In questa maniera loro hanno ricreato il vecchio schema del cantastorie. Il cantastorie raccontava a tutto il paese, a tutto il villaggio, a cosa serviva. Serviva a creare delle linee di affinità al gruppo, serviva a creare delle linee grazie alle quali la stessa società era possibile. Io scrivo un genere fantasy, il genere fantasy è considerato un genere minore, non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando fanno quei colloni verso il basso, io sono Scrunk, figlio di Scrunk, il genere fantasy è quella roba lì. In realtà il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. Ma infatti fantasy è un termine che è stato iniziato ad usare da 20 anni circa, prima non veniva usato, era un termine che è stato usato anche in termine quasi di gioco fanciullesco, di regressione adulta verso una letteratura fanciullesca. È venuta fuori la fantasy che ha coinciso un po' con la New Age, coinciso qua con un senso di rilettura di testi che venivano considerati eretici. Il Signore degli Anelli, testo eretico per eccellenza, negli anni 70 leggere Il Signore degli Anelli significava farsi spaccare la testa per strada, oggi Il Signore degli Anelli è diventato, diventato oggi un po' meno, una sorta di simbolo probabilmente mal interpretato di un mondo in cui poi il bene e il male si contrappongono e poi vince sempre il bene, qualcosa del genere. È giusto questo percorso che ti ho suggerito? Sì, è giustissimo. La letteratura fantasy fonde il poema epico, che ha valori maschili, coraggio, lealtà e cavalleria, e la fiaba, che ha valori femminili, la tenerezza verso il bambino, l'orrore di non essere amati. Nell'eterna figura dell'orfano, Biancaneve è orfano, Cenerentola è orfano, Harry Potter è orfano, Spider-Man è orfano, mentre Buttonatroccolo e Pinocchio sono figli di genitori dispersi, è rinchiuso l'orrore del bambino non amato, orrore che è stato negato fino a 70 anni fa, solamente 70 anni fa, con gli studi del neuropsichiatra Bowlby, il dolore del bambino non amato affiora alla luce della scienza. Il Signore degli Anelli è stato scritto da Tolkien, e quindi in questo libro ci sono l'orrore della prima guerra mondiale, che è stata una guerra disumana. Tolkien era stato nelle trincee, ma soprattutto l'orrore della fine del mondo che noi abbiamo cominciato a provare con i terrificanti totalitarismi del secolo scorso. Biancaneve, povera creatura, aveva paura di morire lei, ma non ha mai avuto paura che il mondo a lei noto terminasse. Noi di fronte a questi mostri, Hitler, Stalin, e adesso noi dobbiamo fronteggiare un terzo mostro, cominciamo a aver paura che il mondo a noi noto finisca, e quindi creiamo nella letteratura fantasy qualcosa che ci ridia coraggio. E una letteratura, come tutte le letterature, servono per aumentare la nostra capacità di sopravvivenza, servono, se mi permettete un italiano di plastica, a gestire lo stress, ma molto più fondamentale, un italiano un pochino meno di plastica, è l'unica arma che noi abbiamo avuto per millenni per combattere il dolore, perché noi esseri umani abbiamo una capacità straordinaria di provare dolore che non ha nessun altro. 800240024, siamo incamminati sulla traccia del riconoscimento di alcuni momenti fatali della nostra formazione attraverso dei libri. al Salone del Libro normalmente di questo tipo di letteratura si parla come un genere. Fondamentalmente gli autori vengono qui, sono romanzieri contemporanei, sono saggisti, sono congelatori della contemporaneità. Noi vogliamo fare un passo indietro, vogliamo cercare quelle che sono le radici profonde della trasmissione della nostra esperienza. Per farlo vi diamo dei suggerimenti che probabilmente vi richiameranno qualcosa caro alla vostra fanciullezza. Queste di Alice la storia, storia fantastica e varia, nel paese delle meraviglie Alice vi porterà, col permesso di mamma e papà. Ho anche sbirciato nel libro di mia sorella, ma è senza figure. A cosa serve un libro senza figure? Che noia! Potrei intrecciare una ghirlanda di fiori, ma vale la pena di far la fatica di raccoglierli. Ed ecco che un coniglio, bianco come un giglio. Ogni tanto mi piace far riascoltare queste favole che hanno accompagnato tre generazioni almeno di italiani, mutando per ogni generazione il supporto. All'inizio erano su dischi 45 giri, li ricordo ancora, poi su normali audiocassette, poi su CD. Oggi se le scaricano direttamente attraverso i mulli, i ragazzini, perché sono diventate qualcosa di impalpabile, affondano soltanto nel codice che le rappresenta. Alice nel Paese delle Meraviglie, mi ricordo, sulle Valle Mari, lo considero uno dei tre romanzi fondamentali, dei tre personaggi fondamentali che in fondo servono a raccontare il grande dilemma dell'umanità ai ragazzi. Sì, certamente. Con l'illuminismo noi abbiamo acquisito un nuovo tipo di narrazione, il romanzo fantastico. Mentre la fiaba doveva essere raccontata nello spazio di una sera ed è completamente autarchica, anonima, è nata tra la gente. Noi non sappiamo che ha inventato Biancaneve. Le fiabe sono nate tra la gente, poi hanno viaggiato di popolo in popolo e di epoca in epoca, e poi sono state raccolte da un narratore colto, i fratelli Grimm in Germania, però in Francia. Il romanzo fantastico invece presuppone qualcuno che sappia leggere e quindi va avanti capitolo dopo capitolo. Né Pinocchio né Harry Potter sono raccontabili nello spazio di una sera. Con l'illuminismo impariamo tutti a leggere e scrivere, chi più chi meno, in Italia onestamente meno. Noi siamo arrivati a un'Unità d'Italia con il 70% degli italiani analfabeti. Posso sottolinearti una cosa, Silvia Mara? Dunque, davanti a noi abbiamo dei professori con le scolaresche. Il professore sta spiegando ai ragazzi il Salone del Libro, la struttura, lo vedo lì molto indaffarato. I più intelligenti, i ragazzi, invece che ascoltare il professore, sono rivolti verso di noi e stanno cercando di capire cosa diciamo noi. È un esempio calzante di una contemporanea mediazione rispetto a un luogo come questo. Il professore è interessato a illustrare loro la struttura, il percorso. Alcuni ragazzi, probabilmente saranno i più discoli, saranno quelli rimandati, hanno per un attimo fatto questo gesto di trasgressione di cercare di ascoltarti, ma sono stati richiamati all'ordine, si stanno già incamminando con la transumanza, le scolaresche, a fare il giro degli stand. Scusami, ti ho interrotto, devo descrivere proprio quello. Infatti. E adesso che stiamo parlando di Unità d'Italia, l'Unità d'Italia è stato qualcosa di straordinario, perché senza l'Unità d'Italia noi ci saremmo persi persino l'alfabetizzazione. All'Unità d'Italia 7 italiani su 10 non sapevano leggere, mentre in Finlandia gli analfabeti erano 1 su 10, in Inghilterra erano 2 su 10. E senza questa operazione non ci saremmo mai arrivati. Ed è comunque qualcosa di straordinario, perché un popolo che sa leggere aumenta le sue capacità di libertà. Io posso scegliere che cosa leggere tra migliaia di libri, ma soprattutto aumenta la sua capacità di far fronte al dolore, ma anche la sua capacità di risolvere problemi. Che cos'è il Signore degli Anelli? E se questo è un uomo? I due libri sono due libri che raccontano esattamente la stessa storia. Se questo è un uomo, racconta quello che è veramente successo. E il Signore degli Anelli quello che avrebbe dovuto succedere, cioè che la cavalleria arrivasse prima del massacro. Ma ambedue i libri trattano del genocidio. La narrativa fantastica, grazie all'ambientazione fantastica e al lieto fine, ci permette di trattare dei temi più atroci. L'incantevole Alice nel Paese delle Meraviglie ci parla di una nuova realtà che si forma con l'Europa industriale, che è la follia, il manicomio. Peter Pan, questa storia così bella, ci racconta un'altra storia terribile che prima non c'era, i bambini rinchiusi in ospedale. Si dicevano di Peter cose molto strane, si diceva che quando i bambini morivano Peter li accompagnava nel primo tratto di strada perché non ne fossero terrorizzati. Peter Pan capitolo 1, Peter Pan è l'angelo della morte, è stato perso da sua madre. Cosa vuol dire ho perso mio figlio? sta nell'isola che non c'è, coi bambini perduti. Cosa vuol dire ho perso mio figlio, queste madri distratte? E ci dicono che i sentieri dell'isola che non c'è hanno la stessa forma del diaframma della febbre che c'era davanti ai letti in ospedale, ma in un'epoca in cui non c'erano dottor House e Grace Anatomy, chi sapeva di quei diagrammi se non i bambini rinchiusi in ospedale? Fermati un attimo, se vale Mario, che abbiamo Claudio da Firenze. Claudio, buongiorno. Buongiorno a lei, Claudio. Nicoletti. La prima voce che rimbomba oltre alle nostre nel salone, quest'aula sorda grigia del Salone del Libro. Buongiorno, io volevo fare una precisazione sulla questione fantasy, su chi ha inventato e come è nato. Lei l'ha studiata profondamente questa problematica. Mi scusi? Dico, lei per fare una precisazione ha studiato questo tema. Diciamo che mi sono divertito. E quindi è un autodidatta, sì, nel mio un praticone. Silvana De Mari ha scritto e studiato tutta la vita. Mi sono dedicato ad altre cose. Per hobby, quindi ci dice quello che è il suo punto di vista. Allora, cosa deve dirci? Allora, io secondo me, secondo diversi autori... Quali? Il fantasy è... Quali autori? Grazie alla... Sì, ma quali autori? Ha detto diversi autori, quali autori? Nel senso che se lei prende in mano qualche libro di fiabe e va a cercare alla dizione fantasy, troverà che generano il genere fantasy, lo considerano inventato dalla compagnia degli Inkling, cioè degli imbrattacarte, che non erano che tre professori universitari di Oxford. Uno per l'appunto si chiamava Tolkien, l'altro si chiamava lo scrittore delle cronache di Narnia, e sì, un altro ancora era un altro scrittore, ma mi scusi il nome. Questi tre scrittori, che inizialmente erano antipapisti, hanno tutte storie familiari, di insegnamento familiare, quasi tutti protestanti, quando hanno la conversione e diventano cattolici, trasformano la propria storia di vita da pagana a cristiana. Il classico caso lo è nelle cronache di Narnia, nel leone. Il leone altro non è che la rappresentazione di Cristo, che è dalla parte dei buoni nelle cronache di Narnia, non è dalla parte dei cattivi o dei pagani. Quindi secondo me il fantasy, secondo altri, il fantasy parte grazie alla compagnia degli Inkling, che in tradotto vorrebbe dire degli imbrattacarte. Questo volevo dire. Sentiamo Silvana De Mari su questa sua lettura, di questa... Assolutamente giusto. Ragione. Perché il cristianesimo è stato escluso negli ultimi 200 anni, ma soprattutto nell'ultimo secolo. Il nazismo e il comunismo sovietico non sono movimenti politici, sono movimenti religiosi, messianici e salvifici. Il cristianesimo si è rifugiato nella fantasy, ma anche Il Signore degli Anelli è una storia di sacrificio. Perché è una storia di un viaggio, anche Giasone, anche Indiana Jones fanno dei viaggi, ma fanno dei viaggi alla ricerca del tesoro. Questi il tesoro già ce l'hanno e lo devono sacrificare. In Narnia noi abbiamo molto chiaro il concetto del sacrificio, perché c'è il leone, ma c'è anche molto chiaro nel Signore degli Anelli. Frodo sacrifica la sua salute, la regina degli elfi sacrifica il suo potere. Il concetto di sacrificio è fortissimo, molto presente anche addirittura in Harry Potter. Harry Potter, alla fine di 7 libri, in cui non sappiamo questi di che religione siano, non sappiamo se sono anglicani, protestanti, non si parla mai di religione. Hanno 2 settimane di vacanze a Natale, probabilmente festeggiano l'albero di Natale, una settimana di vacanza a Pasqua, che vuol dire resurrezione, ma non si sa chi sia risolto, sarà risolto l'albero di Natale. Quando muore infatti è stato oggetto di forti anatemi Harry Potter. Perché non se lo sono letti, non lo hanno capito. Quando muore il preside, viene seppellito senza simboli religiosi, in realtà è lo stesso schema di Pinocchio, non c'è la religione perché siamo dentro una storia profondamente religiosa. Alla fine di 7 libri, nel 7° libro, compare improvvisamente come un colpo di fucile la parola chiesa. Dov'è? Di fianco alla chiesa. Ma allora le chiese ci sono, siamo anglicani o protestanti? E alla fine Harry muore per poter risuscitare. C'è lo schema del Vangelo di San Giovanni: chi non ha paura della morte vivrà in eterno. È una storia profondamente religiosa. E secondo lei l'autrice aveva un'intenzione reale di mettere tutte queste cose sta dicendo? Non ne ho la più pallida idea e non posso saperlo e non potremo mai saperlo, perché l'immaginario collettivo è una cosa di cui non sempre noi siamo coscienti. Collodi probabilmente non si era minimamente reso conto che stava scrivendo una storia che sarebbe diventata un archetipo universale. Stava scrivendo una storia puntata per portare a casa 2 lire. Addirittura il mago di Oz, che nasce come una metafora finanziaria, a un certo punto si autonomizza perché è vivo. Non è che tutti i grandi scrittori di fiabe o di fantasy erano lì che dicevano: dunque, l'emisfero di destra. Sai, se la il mago di Oz è la metafora che uso più spesso per descrivere il fantomatico e illusorio potere del conduttore radiofonico. Molte volte capita, noi che parliamo per radio, che la gente ci fermi per strada, ci dicono: ah, la sua smisurata cultura, la sua profonda saggezza, la sua grande umanità. A noi ci viene da ridere, diciamo, noi siamo quel mago di Oz, un omettino triste, chiuso, anche allegro, simpatico, chiuso in un grande scatolone che muove leve, pulegge, gli danno una voce, dice: sono il grande, terribile mago di Oz. Ma basta che il cagnolino d'oro ti scosti la tenda e si capisce chi realmente c'è dentro la macchina, sei d'accordo? Sì. Dracula di Bram Stoker. Ho lasciato Monaco alle 20:35 del 1° maggio e sono giunto a Vienna il mattino dopo. Da quando il signor Renfield si è sentito male e non ha più potuto seguire gli interessi del conte a Londra, questo importante incarico è stato affidato a me e la cosa mi ha riempito d'orgoglio. Se riuscirò a svolgerlo nel migliore dei modi, il nostro futuro, quello mio e di Mina, sarà assicurato. Mi dispiace solo di non aver potuto sposare Mina prima di partire, ma non importa. Sarà la prima cosa che farò al mio ritorno. 800240024, siamo qui al Salone del Libro, mentre il mondo ci circonda e si consuma nel feticismo del supporto del libro. Noi cerchiamo di capire quale sia l'anima del libro, ci sia al di là di quella carta, di quella colla, di quell'inchiostro, di quel parallelepipedo che occupa spazio. In realtà all'interno di un libro c'è qualcosa di molto profondo. Il libro è il contemporaneo supporto. Quando dico contemporaneo sto parlando delle ultime decine di migliaia di anni attraverso cui l'uomo ha lasciato qualcosa della sua esperienza, o ha lasciato addirittura dei segni profetici di quello che potrà essere una possibile lettura del mondo. Chi poteva, chi vedeva, chi era illuminato. Silvana De Mari, che è la scrittrice di romanzi per ragazzi, ma anche tante altre cose qua accanto a me, addirittura ha allucinato come alcuni autori abbiano quasi una capacità medianica di scrivere cose che in realtà non sono consapevolmente bagaglio della loro esperienza, come l'autore di Pinocchio, come l'autore di Peter Pan, come l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. È qualcosa che è nell'aria, che lo scrittore, l'autore, come il poeta, intercetta, diventa supporto di quel qualcosa e poi noi lo conosciamo attraverso il libro. In particolare abbiamo sentito Dracula. Silvana De Mari, Dracula cosa ti ispira? Dracula è un'altra metafora di morte. Noi negli ultimi 200 anni c'è una scarnificazione gonadica, sì, impellente questa mattina. Sì. Ah, lo so. Stiamo scivolando verso una cultura di morte, quindi l'abbiamo rappresentata con la danza macabra. La danza macabra è un tipo di narrazione, in parte narrata, potrebbe essere un'opera teatrale, potrebbe essere un affresco, che nasce nel XIV secolo. Nel XIV secolo noi abbiamo in un certo senso un genocidio, anzi abbiamo 2 genocidi intrecciati. Il primo è un genocidio casuale, arriva la peste nera, una peste tremenda, quella descritta da Boccaccio, più terribile di quella che poi sarà descritta dal Manzoni, perché le condizioni igieniche del Medioevo sono di gran lunga peggiori, ma soprattutto perché noi non conosciamo il batterio. Alla fine della peste nera un europeo su 3 era morto e vengono accusati di aver contagiato la peste nera gli ebrei. Quindi noi abbiamo la prima tragica, drammatica persecuzione fisica degli ebrei fatta al di fuori della chiesa e contro la chiesa. A un certo punto la chiesa riuscirà a porre termine a tutto questo. Serve sempre un responsabile quando c'è, sì, una pestilenza, esatto, qualcuno che ha compiuto un gesto o è un propagatore o un untore, come nel caso manzoniano. Esatto. E interi ghetti sono stati bruciati e nasce la danza macabra. La danza macabra sono dei non morti, degli scheletri pietri che attirano i viventi verso la morte. Noi abbiamo una ciclopica danza macabra, il conte Dracula di Transilvania e tutti i derivati, Edward, che è l'ultimo esempio della stirpe, sarebbe il vampiro moderato. Poi abbiamo gli zombie, lo zombie e il non morto, il Frankenstein. Che è uno dei filoni più recenti della sì. filmografia splatter. E che è un filone assolutamente corretto. Se noi leggiamo quello che è successo ad Auschwitz, se noi leggiamo quello che è successo, noi abbiamo il paradigma del genocidio, cioè il massimo risultato col minimo sforzo, noi l'abbiamo al massacro di Nanchino. Massacro di Nanchino, il 12 dicembre del 1937, i giapponesi entrano a Nanchino e fanno 350.000 morti all'arma bianca, più 50.000 bruciati vivi, più 50.000 donne violentate a morte, più o meno. Per riuscire a fare una roba di questo genere è necessaria una psicosi. 10 uomini che avanzino ammazzando 100 persone ognuno si trovano a un certo punto ad avanzare in un luogo all'arma bianca dove ci sono per terra 70.000 litri di sangue, cioè uno avanza col sangue fino al ginocchio. Se non si è completamente fuori di testa non è possibile farcela. E tu sai che però l'odore del sangue a sua volta ci suscita, tu che sei medico, entra in contatto con dei nostri istinti. In realtà noi siamo sanguinari, noi siamo sì. sgozzatori, noi siamo assassini, lo siamo sempre stati. La civilizzazione impedisce che lo siamo. L'odore del sangue molte volte risveglia in noi l'istinto. Noi siamo fondamentalmente feroci e la civilizzazione è riuscita ad attenuare la nostra ferocia, a creare invece delle linee corticali. Noi abbiamo nascosto la psicosi, che è contagiosa. Le psicosi sono contagiose, questa non è una metafora, è un'informazione tecnica, ce lo siamo dimenticati perché abbiamo i neurolettici, ma si contagia. D'altra parte, se resto l'unico sano di mente in un gruppo di persone che stanno sgozzando i bambini in un campo a lungo, nella perfetta rappresentazione dello zombie. Noi tendiamo a giustificare il nazismo con linee razionali, erano stati umiliati nel trattato di Versailles, mica gli avevano violentato le madri al trattato di Versailles. Dimentichiamo che l'odio, non dimentichiamo che la culla del nazismo è anche la culla della musica, della letteratura, della poesia, della filosofia, infatti, più sublime, più eccelsa dell'ultimo secolo. Semplicemente l'odio e la psicosi si contagiano ed è terribilmente piacevole. Quando contagiamo l'odio è come essere strafatti di coca, quindi l'odio è una tossicodipendenza che si automantiene. Dove non ci siano i paletti, ci devono essere gli stramaledetti paletti, non uccidere, non rubare, non si uccide mai il bambino. Una volta che i paletti siano saltati, la ferocia non conosce più limiti e a un certo punto si automantiene. Vale per tutto, anche non desiderare la donna ad altri. Quando uno fa il salto una volta, poi non desiderare la donna ad altri è un comandamento straordinario che nessuno ha capito. Chi è la donna ad altri? Chi sono gli altri? Beh, gli altri sono i ragionieri rossi, quindi non devo desiderare sua moglie. Ok, d'accordo. Perché è rivolto solo ai maschi? Perché i maschi hanno il testosterone, noi siamo femminucce, abbiamo gli estroprogestinici, abbiamo l'istinto materno, ma dal punto di vista sessuale, parliamoci chiaro, gli estroprogestinici sono robetta, il testosterone è dinamite. È una bestia, sì. Un uomo pensa al sesso 4 volte l'ora, noi pensiamo al sesso 2 volte al giorno quando abbiamo 20 anni, 1 volta al giorno quando abbiamo 30 e da 40 in poi, poche balle, 1 volta su 2 abbiamo mal di testa. Quindi non è solo l'aver spostato... Vedo nel nostro folto pubblico signore cinquantenni che fanno no col ditino, diciamo noi anche qualche volta in più, diciamo no signore, noi femminucce, sì signore, signore, ah signore, vabbè, allora no. Qualcuno è più dotato, io parlavo della allora non è solo che sposta sull'uomo la responsabilità dell'adulterio, che in un'epoca in cui si stanno sempre più diffondendo il velo e le mutilazioni sessuali non mi pare da poco, non chi sono gli altri? Se noi siamo i tedeschi gli altri sono i russi, se noi siamo i greci gli altri sono i troiani. Vieta lo stupro etnico, anzi non vieta lo stupro etnico. Lo stupro etnico è già vietato in non commettere atti impuri. E il dio degli sdelitti non era uno che dicesse poverini, ha capito male, glielo spiego di nuovo. È non commettere atti impuri, anche solo averci pensato. Perché la sessualità maschile è dinamite e nel gruppo si autoalimenta. Dopo che ci siamo detti adesso li andiamo a invadere, gli prendiamo le donne e la roba e tutte le guerre di sterminio cominciano così, potremmo non fermarci. Straordinario, non desiderare. Come lo spieghi, Silvana Mari? Tu dici la sessualità maschile è dinamite. Come spieghi questa diffusa, sdoganata, culturalmente accettata, su cui non ho nulla da dire, ma in realtà come fenomeno molto preponderante, degli uomini che si travestono da donna e rappresentano l'apice della desirabilità, della trasgressione? Il fenomeno del trans oggi è quanto di più celebrato, vituperato, ma allo stesso tempo accarezzato come sogno proibito. Dove è andato a finire il testosterone in questo caso? Il testosterone è sempre presente. Infatti le relazioni omosessuali, dove tutti hanno il testosterone, sono comunque molto molto vivaci. Per la prima volta stiamo sperimentando se sia meglio o se sia peggio, invece di avere due sessi assolutamente definiti, averne più di uno. In realtà l'omosessualità è un sistema statisticamente meno frequente di normalità, con cui madre natura trova un ottimo trucco per risolvere il problema della sovrappopolazione. Tanto aumenta la densità di un popolo, tanto maggiore in quel popolo compariranno linee omosessuali, che sono linee difensive. Inoltre, l'altra è la limitazione delle nascite. È la limitazione delle nascite, da cui arriva una cosa che scandalizzerà. Grazie. Molti, mi scuso di dire una cosa così politicamente corretta, l'omosessualità è una forma statisticamente meno frequente di normalità che ha lo scopo di contenere le nascite. Un bambino deve avere due genitori di sesso diverso, deve avere un padre dotato di testosterone e una madre dotata di estroprogestinici. Mentre sono assolutamente favorevole che coppie stabili omosessuali abbiano bambini in affidamento, un bambino in adozione, un bambino piccolo che già deve risolversi il lutto della perdita della propria madre biologica, che è un lutto gravissimo, deve avere una famiglia banalmente costituita da papà e mamma. Sentiamo, noi abbiamo sentito, tornando al nostro punto della trasmissione del sapere, dell'esperienza attraverso supporti, abbiamo sentito Dracula letto e tradotto, come abbiamo sentito le favole, non casualmente abbiamo sentito perché fa parte di una maniera antica, se vogliamo, ma ultimamente prodotta attraverso un nuovo vigore, di trasmettere il sapere dei libri attraverso la possibilità di ascoltarlo. Abbiamo al telefono Marcello Pozza, che è l'editore della Good Mood, edizioni sonore. Il filebook esattamente in cosa consiste, Marcello Pozza? Buongiorno Nicoletti. Il filebook sostanzialmente è un'invenzione che permetterà di poter acquistare in libreria, d'accordo, file digitali scaricabili poi dalla rete via internet. Quindi questo è il punto d'arrivo rispetto a quello che noi diciamo, in cui il supporto sparisce. Siamo al punto zero della poesia. Il libro, che viene considerato in maniera feticistica come un oggetto che dà esistenza e consistenza a chi lo possiede, io leggo soltanto libri, non guardo la brutta televisione, in realtà vale per la sua essenza. Il file sonoro dimostra che il libro ha un'anima. Melog 2.0. Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Erano quasi le 5 di una freddissima domenica mattina. Il Taurus Express era fermo alla stazione di Aleppo in Siria e sul marciapiede della stazione un giovane tenente francese chiacchierava amabilmente con uno strano omino imbacuccato fin sopra le orecchie, di cui erano visibili solo le punte di un paio di baffi neri arricciati all'insù. Il tenente Dubosc era stato incaricato di accompagnare alla stazione il signor Hercule Poirot. Marcello Pozza, ci siamo interrotti con lei per le informazioni del traffico. Cosa stiamo ascoltando adesso di quello che voi producete? Stiamo ascoltando, diciamo, una delle nostre ultime produzioni, che è una serie dedicata appunto ad Agatha Christie, e questo è appunto Assassinio sull'Oriente Express. Abbiamo già chiuso altre tre produzioni, che sono Assassinio sul Nilo, 10 piccoli indiani e L'assassinio di Roger Aykroyd. Ecco, mi dice il criterio in cui scegliete queste opere e soprattutto il successo che hanno, chi le compra, chi le scarica. Lo scaricare file sembra un'operazione, erroneamente l'ho sempre detto, attribuibile a una classe anagrafica molto fresca. In realtà questi non sono romanzi da ragazzini, eppure pare, se voi li producete, probabilmente ne avrete senz'altro un vantaggio di mercato. Qual è il vostro pubblico e come opera l'acquisto? Sì, ma infatti adesso ha colto nel segno, nel senso che produzioni di questo genere si rivolgono evidentemente a un pubblico anche un po' più adulto, diciamo. E in questo momento sicuramente la parte del leone dal punto di vista della, diciamo, della vendita di file digitali la fa iTunes, il portale che, voglio dire, nel mondo si è affermato per la musica, e si sta affermando anche proprio per la vendita quelli che chiamiamo gli audiolibri. E mi sembrava una metodologia che appartenesse a altri tempi, non so, forse sono un po' vecchio, gli anni 70, gli anni 80, poi a un certo punto con l'imperio dell'immagine sembra che il mondo è diventato multimediale e visivo, ma in realtà l'assorbimento attraverso il canale uditivo di un contenuto, io sono fortemente convinto che impregni molto di più. Il canale visuale è un canale fallace già per se stesso, la possibilità di elaborazione del video oggi ci fa vedere delle cose meravigliose, tridimensionali, ma ci allontana sempre più dal fatto ciò che vediamo sia certezza. Invece la storia raccontata entra quasi in maniera subliminale e lascia la sua traccia. Sì, noi italiani credo siamo anche un po' viziati, perché siamo probabilmente cresciuti, diciamo, con la scuola del radiodramma, che ci ha insegnato molte cose, che ci ha insegnato l'uso delle voci, l'uso di quelli che adesso si chiamano i sound effects, cioè il sound design, quindi l'uso dei suoni, dei rumori per raccontare la scena. Ma lei sa come venivano fatti nei radiodrammi? Lo so perché per una sfumata lunga della mia storia ho vissuto il Rai quando ancora si facevano radiodrammi. Era una saletta, la sala Como si chiamava, in cui erano riprodotte i vialetti con la ghiaia, le porte, i chiavistelli, le sciabole, le forchette. C'era un rumorista che era bravissimo, mentre gli attori recitavano, faceva queste colonne sonore in diretta, agendo sugli... non c'era l'idea della riproduzione digitale del suono. Per fare un suono c'era l'unica possibilità di sferruzzare con degli oggetti, come io batto sul mio microfono, questo è il rumore di penna battente sul microfono. Esatto, oggi la tecnologia ci aiuta un po' di più nella messa a punto dei suoni, ma vogliamo proprio riproporre quello stile, cioè avere più voci narranti, utilizzare la musica per sottolineare i momenti più salienti, diciamo, del racconto, cercare veramente di, come diceva lei all'inizio, far viaggiare un po' di più la nostra mente. Ecco, noi sentiamo un attimo un'ascoltatrice, un attimo, mi scusi, Maria Vittoria da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Voce per questo... È un po' lontano, sì, sento anch'io un po' lontano. Mi sente? Sì, adesso perfettamente. Allora, vada al punto. Io sono affascinata in questo momento, perché purtroppo non vedo più, per cui adesso mi devo contentare di leggere, di sentire i libri sul lettore, così. Ma sono nata e cresciuta con i libri, ho ancora tutti i miei libri nelle librerie. E sento molto la mancanza del contatto con il libro, con la carta stampata. Io molto. Ho una grande commozione nel sentirla, però vorrei sentire Silvana De Mario su questo fatto. Come mai, visto che sei anche medico e in parte conoscitore dell'animo umano, ho un profondo senso di disagio verso il feticismo dell'oggetto libro? Per me il libro è qualcosa che devi raccontare. Una volta che è raccontato, può anche scomparire se lascia in meno una traccia. Io ogni 3-4 mesi faccio una sorta di sterminio di massa di libri a casa mia. Molte volte li regalo, li offro ai carcerati, metto annunci su Facebook. Il libro... è giusto che sia considerato anche un feticcio, o è semplicemente qualcosa che o si assorbe o è meglio che non si abbia? Ambedue le cose. Io trovo bellissimo che esista poter scaricare un file, così come trovo splendido prendere libri a prestito dalla biblioteca. Poi il libro che veramente ho amato, il libro che veramente mi è piaciuto, lo vado a acquistare. Quello lo conservo in qualità di carta, magari ci sono le mie scritture immagine, possono esserci delle sottolineature. Così da avere in casa una biblioteca ideale costituita solo da libri molto amati ed eliminare tutti gli altri. E un piacere estremo è ascoltare un libro. Io sono molto felice che in Germania, io ho due libri, L'ultimo elfo e L'ultimo orco sono due libri in Germania, negli Stati Uniti L'ultimo elfo è un audiolibro, perché per me è un grandissimo piacere ascoltare un libro mentre guido. E quindi non solo, ma ci riporta anche all'inizio, la narrazione nasce orale. Ecco, io devo, visto che siamo quasi in conclusione, dare due annunci di servizio. Primo, ho già detto che i 5 che saranno gratificati da telestampo.it, che stamperà i loro libri, avranno una possibilità in più: oltre ad avere queste 50 copie gratuite, avranno anche il codice IBAN, quindi queste 50 copie potranno essere anche vendute online, ammesso che ci sia una possibilità che qualcuno le voglia acquistare. Ma c'è un'ulteriore meravigliosa sorpresa di cui avremo modo di parlare anche nei giorni a seguire. Abbiamo in studio Stefano Bellentani, editore della Cult Editore. Qual è il tuo messaggio? Perché sei seduto a questo nostro tavolo? Sono seduto perché innanzitutto ho ascoltato ieri l'altro la trasmissione e ho appreso di questa iniziativa di Radio 24, che considero molto bella e anche molto coraggiosa, perché il fatto di esporsi in pochissimo tempo alla ricerca di un libro e chiudere questo concorso in soli 3 giorni rappresenta una sfida. Ma non è un concorso, è nato come un gioco, nel senso, ci faceva far sorridere delle persone che tenevano questi scartafacci nascosti nei loro cassetti da tanti anni. Però è venuta fuori una cosa seria, abbiamo veramente centinaia di segnalazioni. Ma tu in particolare cosa offri, cosa metti sul tavolo? Ma noi vogliamo pubblicare un libro e diffonderlo. Ecco, la differenza probabilmente è questa, cioè al di là di offrire una pubblicazione come offrono vari siti di libri dedicati a chi vuole autopubblicarsi il libro, la differenza è quella che l'editore può promuovere un libro, può far sì che il libro sia diffuso e, ecco, se posso permettermi un attimo, può far sì anche che l'anima del libro esca, perché l'anima del libro esce quando molte persone lo leggono, quando il libro diventa un patrimonio di tutti, per cui questo è il messaggio che vorremmo dare. Quindi Bellentani, la casa editrice, se non ti estirpo una dichiarazione, si impegna a pubblicare un libro dei nostri ascoltatori con tutti i crismi. Lo prenderete, lo pubblicherete, lo editerete, lo diffonderete, lo promuoverete come un libro qualsiasi. Come vero. Un libro vero e effettivo della nostra casa editrice. Per quante copie? Ma pensiamo almeno 2000 copie. Beh, sarà una cosa. mi strapperanno le vesti di dosso, sarò assalito a questo momento. Comunque, l'appuntamento con gli aspiranti scrittori è domani mattina alle 10. Domani mattina alle 10, poi domani sera alle ore 21, se non sbaglio, ci sarà l'apoteosi dell'aspirante scrittore. Quindi avrete 5 di voi avranno i libri stampati in 50 copie e ci fanno quello che vogliono. Ma uno, che sarà il privilegiato, avrà un libro pubblicato realmente dalla Calt Editore, sarà con noi Bellentani e daremo in mano questa sorta di coupon della vera pubblicazione. Poi spero che avrà anche successo, se avrà successo e se le storie saranno lievemente diverse da quelle che ci avete finora proposto, che in realtà facciano un po' schifo, ma migliorerete. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.